Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa non è una passeggiata per stringere tre mani e per assaggiare tre calici. Tanto perché farlo alle 10 di mattina, non avendo io le fisiche roll, siamo partiti. Mio amico Munelli lì è partiti con. Sono contento e hanno fatto l'accordo Prosecco Ferrari, però io partire alle 10 ho preso un po' di prosciuttino, se no non la reggevo. Vedo qualche giornalista fiorentino che sa che insomma noi dalle 5 in poi si riesce un po' a reggere, ma alle 10 di mattina con le bollicine rischiamo subito di andare in difficoltà. E gli conviene, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rimanere ben sobrio a Renzi, perché le questioni sul tavolo sono sempre molte, i problemi da affrontare tanti. È vero che ieri ha presentato il DEF, che Fondo Monetario e Unione Europea hanno detto va bene, poi vogliamo vedere i dettagli nero su bianco, però insomma dice lui stesso che dalla stampa, dice Renzi, non è stato accolto con gli entusiasmi e con l'entusiasmo che lui si aspettava. Però non è solo questa la questione, solo la politica degli annunci che aspetta anche poi naturalmente di essere concretizzata, ma ci sono poi, lo sapete, le tensioni interne al PD. Oggi è stata la direzione PD, poi c'è ancora da capire che cosa succederà quando domani arriverà la sentenza su Berlusconi del Tribunale di Sorveglianza di Roma, di Milano, scusate, che dovrà decidere se mandarlo agli arresti domiciliari oppure ai servizi sociali. Quindi tante le cose in campo. E poi fra i temi di questa sera, sicuramente dominante nelle notizie di oggi, è stata questa ulteriore spallata alla legge 40 sulla fecondazione assistita. È stata bocciata la norma che vietava fino a poco fa la fecondazione eterologa, cioè con ovociti e con spermatozoi di persone esterne a una coppia. Che cosa ne pensate di questo argomento? È una legge che dovrebbe essere completamente rivista, dovrà ripassare dal Parlamento, poi avremo un'esperta, una costituzionalista più tardi. Che ne pensate voi? Dei vari temi ci sono sempre per voi come spazi per discuterne l'effetto notte su Facebook, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ma intanto partiamo come sempre con il racconto della giornata. Fecondazione eterologa, cade il divieto, bocciati gli articoli della legge 40 che proibivano il ricorso a un donatore esterno in caso di infertilità assoluta. Il DEF presentato ieri da Renzi, l'Unione Europea promuove la manovra economica, il Presidente del Consiglio ribadisce nessuna manovra correttiva sarà necessaria e Confindustria dice bene le riforme ma è troppo timida la riduzione dell'IRAP. Elezioni europee, svolta nel Partito Democratico, solo donne in testa alle liste. Il processo per la clinica degli orrori, ergastolo per l'ex primario Brega Massone. Calcio, ancora spettacolo in Champions, stasera in campo Atletico Madrid-Barcellona e Manchester United-Bayern-Monaco. Partiamo quindi dalla notizia di primissimo piano di oggi, che ha continuato anche sui siti a essere sempre al primo posto, la legge sulla fecondazione assistita, che perde, vi dicevo, un altro pezzo. Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale. Questo lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma della legge 40, che è entrata in vigore, vi ricordate, 10 anni fa, nel 2004, e che vieta il ricorso a un donatore o una donatrice esterni. Un'altra spallata alla legge 40, e questa volta vigorosa, a cadere è uno dei pilastri della tanto contestata normativa entrata in vigore 10 anni fa, il divieto di fecondazione eterologa, quello che ha portato ogni anno 4.000 famiglie all'estero. Illegittimo, secondo la Corte Costituzionale, non si può dunque più vietare alle coppie infertili di ricorrere ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi. In Italia centri pubblici e privati dovranno dunque eseguire tecniche di fecondazione con gameti esterni, ma solo a coppie sposate o conviventi stabili e non a single o omosessuali. Per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin però bisogna aspettare un intervento del Parlamento perché c'è un vuoto normativo. Non è così secondo le associazioni che si battono da anni contro la legge e per le quali è sufficiente un aggiornamento delle linee guida ministeriali. Monica Soldano, presidente di Madre Provetta. Esistono già delle norme sulla sicurezza per la gestione delle banche di tessuti in cui rientra anche le banche dei gameti. Non abbiamo un vuoto. Una decisione sconcertante, commenta invece la Pontificia Accademia per la Vita. L'ultima follia italiana, titola Famiglia Cristiana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ma come vi dicevo, ne riparleremo poi in modo approfondito dopo con una costituzionalista. Passiamo alla politica economica. Il giorno dopo la presentazione del documento di economia e finanza si moltiplicano i commenti. Soddisfatta, vi dicevo, l'Unione Europea, qualche perplessità da Confindustria, Renzi ribadisce che non ci sarà nessuna manovra correttiva. Sono giudizi diversi e contrapposti quelli che riceve il documento di economia e finanza. Il testo piace alla maggioranza di governo, si dimostra che manteniamo le promesse fatte, spiegano da Scelta Civica, Nuovo Centrodestra, Popolari per l'Italia. Soddisfazione nel PD anche se i vertici di Largo del Nazareno devono fare i conti con le critiche della minoranza interna. Per Fassina, intervenuto a Mix 24, Renzi va nella direzione sbagliata. E avrà gli stessi risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, e cioè meno PIL, meno occupati, più debito pubblico. A fine anno ci sarà bisogno di una manovra correttiva, dice ancora Fassina, pronta la replica del Presidente del Consiglio Renzi. Fassina dice che ci vorrà una manovra correttiva, io la escludo nel modo più categorico, anche perché una delle caratteristiche di questo DEF è che siamo stati molto rigorosi nelle previsioni. Le parole di Renzi e soprattutto i numeri del DEF sono bocciati tuttavia dall'opposizione, in particolare Brunetta, Forza Italia, parla di balle cosmiche. Per il momento gli 80 euro non sono coperti e per la parte coperta è una tassa. Brunetta si era interrotto lì per problemi tecnici. Oggi c'è stata anche poi la direzione del PD, si è parlato di elezioni europee. Renzi ha annunciato che ci saranno solo donne in testa alle liste del Partito Democratico e sulle riforme il Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, invita il partito a fare quadrato. Avanti sulle riforme malgrado la fronda interna nel PD. Il governo non retrocede sul superamento del bicameralismo perfetto, sul Senato non elettivo, sul titolo quinto malgrado la minoranza Dem. Tocca al Premier Matteo Renzi ribadirlo durante la direzione nazionale del partito. Queste riforme si possono realizzare, hanno un grado di concretezza, hanno una linearità e una coerenza. Sono occasioni concrete su cui si può lavorare, si può migliorare. Chi invece avesse altre intenzioni, io non evoco la disciplina di partito, perché credo ci sia una disciplina delle idee che è superiore a quella della disciplina di partito. Noi abbiamo fatto un percorso, questo percorso è un percorso serio e credo che nessuno di noi sia qui per cercare di mettere delle bandierine. Il capogruppo al Senato Luigi Zanda ribadisce al Sole 24 Ore che dopo bicameralismo e riforma del titolo quinto sul federalismo bisognerà affrontare il rafforzamento dei poteri del governo e del primo ministro. Matteo Renzi punta poi alle quote rosa per le europee, 5 donne capolista: Alessandra Moretti, Alessia Mosca, Simona Bonafè, Pina Picerno, Caterina Chinnici. Nel frattempo il ministro per le riforme Maria Elena Boschi illustra il disegno di legge alla Camera e ribadisce la volontà di un primo sì entro il 25 maggio. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è l'attesa sentenza su Berlusconi. Dopo le voci sull'ipotesi di affidamento a una struttura per anziani disabili, domani ci sarà l'udienza del Tribunale di Sorveglianza che deciderà su arresti domiciliari per l'ex cavaliere, come dicevo, oppure servizi sociali. Allo studio una nuova iniziativa da presentare alla Corte di Strasburgo a nome dei cittadini italiani che vogliono votare Berlusconi. Non retrocede l'avvocato Anna Palacio dopo il no alla proposta che avrebbe dovuto presentare col responsabile della comunicazione di Forza Italia, Deborah Bergamini, a Strasburgo. Alla vigilia della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulle modalità di esecuzione della pena, il suo popolo dunque resta in fermento, mentre Berlusconi torna a parlare dal leader politico rivolto ai dissidenti di Forza Campania, vicini a Nicola Cosentino. Una strigliata, la sua, contro quelli che definisce maldestri tentativi di sottrarre voti al partito, con la confusione e con l'inganno. Nessun accenno diretto all'udienza di domani, invece. Sarà accolta la sua richiesta di scontare la pena ai servizi sociali? E quali saranno gli obblighi e le limitazioni per l'ex premier? Il collegio giudicante si riunirà alle 17 per l'udienza e avrà 5 giorni di tempo per emettere il dispositivo. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora politica, bagarre oggi dei 5 Stelle in Senato dopo l'accordo sulla TAV. L'accordo sulla Torino-Lione è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva, con 173 sì, 50 no e 4 astenuti, la ratifica dell'accordo tra Italia e Francia per la realizzazione della TAV, la ferrovia ad alta velocità. La Camera aveva già approvato l'accordo. Contestazioni in aula da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle con cartelli ed urla, tanto che la seduta prima del voto finale è stata sospesa. Ma dopo il voto, non appena la presidente di turno Linda Lanzillotta ha proclamato il via libera al DD, e nell'aula è scoppiato il caos. Fuori la mafia. mafia dallo Stato, gridavano dai banchi grillini. E tra i senatori Alberto Airola del Movimento 5 Stelle e Franco Cardiello di Forza Italia si sfiorava la rissa. L'accordo sulla TAV, lo ricordiamo, prevede il dimezzamento dei tempi di percorrenza per i passeggeri. Da Milano a Parigi si impiegheranno 4 ore anziché le attuali 7 ore e mezza e aumenterà la capacità di ogni treno nel trasporto merci, portando così ad una riduzione del numero di camion su strada, che ora sono circa 600.000 all'anno, con conseguente calo di emissioni di gas serra. Ora potranno iniziare tutti gli atti relativi alle opere definitive, ha sottolineato Mario Virano, presidente dell'Osservatorio della Nuova Ferrovia e della Commissione Intergovernativa Italo-Francese. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca con la primissima volta di un medico condannato in Italia all'ergastolo. La sentenza per l'ex primario della clinica Santa Rita di Milano. Una bruttissima storia, Raffaella Calandra, nostra inviata, ha seguito la sentenza. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, è proprio una bruttissima storia. La vicenda fu ribattezzata, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, come la vicenda della clinica degli orrori, quella della clinica Santa Rita di Milano. È la prima volta, come ricordavi, di un medico che è stato condannato all'ergastolo per l'esercizio della sua professione, perché è stato condannato per 4 omicidi volontari e per 45 lesioni gravissime. Perché quei 4 omicidi volontari? Perché secondo la procura, e quindi a questo punto anche secondo la Corte d'Assise di Milano, che ha accolto le richieste della procura, che aveva appunto chiesto la condanna al carcere a vita e anche l'isolamento per 3 anni per l'ex primario della clinica Santa Rita, in sostanza entravano in sala operatoria, quindi sottoponevano ad interventi difficili pazienti molto anziani o malati terminali che non dovevano essere operati, che quindi sono stati sottoposti a sofferenze ulteriori, e però con quegli interventi veniva accettato anche il rischio della morte, è quello che in gergo tecnico si chiama dolo eventuale. Per questo è stato condannato ad omicidio volontario, oltre che per lesioni gravissime. Insieme a lui sono stati condannati i suoi ex aiuti, Tresici e Panzera, a 30, a 20 e 26 anni, e chiaramente ci sono stati anche forti risarcimenti per le parti civili e per la regione Lombardia. Cioè il meccanismo che stava dietro questa storia terribile della clinica Santa Rita era che quanti più interventi grossi venivano fatti, tanto più la clinica riceveva dei risarcimenti dalla regione Lombardia, e questo significava per i singoli medici un bonus degli avanzamenti di carriera. Brega Massone era in aula quando ha sentito il verdetto, non ha fatto una piega, era pallido, appoggiato ad una gabbia dell'aula, e poco dopo, ha terminata la lettura del dispositivo, è stato portato direttamente in carcere perché esisteva un pericolo di fuga secondo la procura, che aveva chiesto e ha ottenuto anche il carcere per lui. Lui era stato anche già condannato a 15 anni per altri 79 casi di lesioni gravissime sempre alla clinica Santa Rita. Si tratta di un verdetto di primo grado, ma la sentenza sicuramente non ha precedenti in Italia. Vedremo quali saranno le motivazioni di questa sentenza e quali saranno poi ovviamente a venire i verdetti anche di secondo grado e della Cassazione. Roberta. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. E adesso parliamo invece di immigrazioni. Sono stati soccorsi 4.000 migranti nelle ultime 48 ore, il totale di oltre 15.000 dall'inizio dell'anno, mentre centinaia di migliaia di persone, forse anche di più di 600.000, sono in Libia in attesa di imbarcarsi per l'Italia. Un'emergenza che va affrontata a livello europeo, così insiste il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Sentiamolo intervistato da Simone Spezia. In Italia la grande parte degli sbarcati, dei migranti che arrivano da noi, sono richiedenti asilo. Noi diciamo sì a chi merita la protezione internazionale o l'asilo perché fugge da una guerra, ma l'Europa deve accogliere quelli che tra di loro non vogliono stare in Italia ma vogliono andare in uno dei paesi europei. Noi abbiamo davanti a noi 6 mesi difficilissimi, perché il bel tempo nel Mediterraneo dura fino a ottobre. Certo, e quindi nel frattempo ci vogliono più soldi per Frontex. Noi dobbiamo fare una grande battaglia per fare sì che questa agenzia diventi un qualcosa di molto più importante e serio di come lo è adesso. Quindi questo è il punto: se servono soldi, ci vogliono soldi, e noi cominceremo la presidenza italiana con questa priorità sull'immigrazione. Per quanto riguarda l'estero, c'è l'Ucraina che ha dato 48 ore di ultimatum ai filorussi che hanno occupato una parte dell'est dell'Ucraina, di questo parleremo dopo. C'è un'altra notizia, questa ve la do in chiusura, dopo il calcio, un'altra cosa oggi è abbastanza innovativa, diciamo così. Dario Ricci, non so se sono innovative le partite adesso di Champions, come vanno secondo le previsioni, che succede Dario? Adesso mi hai messo un po' in curiosità Roberta, dopo mi devi dire questa notizia, però io intanto ti do gli aggiornamenti perché partite come ieri sera ricorderai altrettanto spettacolari, siamo al 31esimo sia a Madrid che a Monaco, partiamo dal derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona, Atletico in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Coque al sesto minuto e pensa Atletico che ha già colpito ben 3 tra pali e traverse, eppure il Barcellona con Messi 2 volte è andato vicino al pareggio, ricordiamo all'andata 1-1, quindi questo risultato qualificherebbe l'Atletico Madrid alle semifinali, finora invece 0-0 a Monaco tra Bayern Monaco e Manchester United, qui partita molto più tattica, una buona occasione per Robben del Bayern al 14esimo, un sinistro a giro fuori di pochissimo, 0-0 risultato che visto l'1-1 dell'andata qualificherebbe il Bayern Monaco, ma sono sfide apertissime. Molto bene, vedremo come si chiuderanno allora con Dario Ricci, invece apro questa agenzia che riguarda una sentenza molto particolare per l'Italia. Il Tribunale di Grosseto ha ordinato al Comune di Grosseto, naturalmente, di trascrivere nei registri di Stato civile il matrimonio fra due uomini italiani, celebrato con rito civile nel dicembre 2012 a New York. Secondo il giudice, nel Codice Civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie al matrimonio. Sicuramente è una cosa che farà discutere, però come oggi sulla legge 40 è una specie di svolta, di precedente. Tutte e due potete naturalmente commentarle sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso gli SMS al 349-238-6666. Intanto la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bene, adesso entriamo nel vivo, come sempre, di alcuni temi in particolare. Tra poco parleremo appunto di fecondazione assistita, di questa ulteriore sbriciolamento della legge 40. Ne parleremo tra poco con un ospite. Vi ricordo però le notizie principali di oggi. Per l'appunto fecondazione eterologa cade il divieto, bocciati gli articoli della legge 40 che proibivano il ricorso a un donatore o una donatrice esterna in caso di infertilità assoluta. Il DEF è presentato ieri da Renzi, l'Unione Europea promuove la manovra economica, il Presidente del Consiglio ribadisce che non ci sarà nessuna manovra correttiva, Confindustria dice bene però troppo timida la riduzione dell'IRAP. Elezioni europee svolta nel Partito Democratico, solo donne in testa alle liste. E poi il processo per la clinica degli orrori ergastolo per l'ex primario Brega Massone. E poi avete sentito, il Tribunale di Grosseto ha ordinato al Comune di trascrivere nei registri di Stato civile il matrimonio fra due uomini italiani avvenuto a New York. E per il calcio ancora spettacolo in Champions, avete sentito delle partite in campo Atletico Madrid-Barcellona e poi Manchester United-Bayern Monaco. E saluto Marilisa D'Amico, buonasera. Buonasera. Buonasera, avvocata, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, legale delle coppie che hanno fatto ricorso alla consulta in tema di fecondazione eterologa. Ve l'ho ricordata più volte la notizia di oggi, appunto la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di accesso a questa metodica, quella della fecondazione eterologa, per le coppie in cui ci sia un problema di infertilità assoluta, dove solo gli ovuli o gli spermatozoi di un donatore possono far concretizzare poi la speranza di un figlio a queste coppie. Quindi D'Amico, questo è davvero un altro pezzo che cade della legge 40 che era stata varata nel 2004, quindi ben 10 anni fa, in questi 10 anni non so se esiste un'altra legge che ha perso più pezzi della legge 40. Ha ragione, ci sono esattamente 32 pronunce di giudici, fra cui 2 decisioni di incostituzionalità della Corte Costituzionale che fanno cadere, diciamo, i 2 pilastri ideologici della legge 40, perché nel 2009 era caduto il pilastro, quello relativo alla fecondazione omologa, che in virtù di questa protezione nei confronti dell'embrione limitava a 3 il numero degli embrioni produttibili e vietava la crioconservazione. La Corte dice per la fecondazione omologa nel 2009 no, gli embrioni devono essere gli embrioni necessari, deve deciderlo il medico e si possono crioconservare. Oggi è caduto l'altro, diciamo, l'altra norma simbolo. Io ieri alla Corte Costituzionale ho detto: questa è una norma simbolo della legge 40, però ne avete sostanzialmente dichiarata incostituzionale una, dovreste dichiarare anche costituzionale questa, cioè la norma che vietava fino a oggi alle coppie sterili di poter appunto accedere alla fecondazione eterologa, quindi una legge riscritta dalla Corte Costituzionale dalle sentenze dei giudici. Quindi quella eterologa appunto che prevede il fatto di prendere degli spermatozoi o degli ovuli esterni alle persone che fanno parte della coppia che vuole figli. Allora bisogna dire, da una parte naturalmente, come è prevedibile e comprensibile, hanno esultato le associazioni che si sono battute da anni contro vari aspetti della legge 40, tanti medici, naturalmente molte coppie, e dall'altra c'è il fronte cattolico che si è indignato. Famiglia Cristiana parla di un'ultima follia italiana, mentre sconcerto e preoccupazione sono stati espressi dalla Pontificia Accademia della Vita. E sentiamo a Radio Vaticana l'avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita. È una pronuncia grave. La norma che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in realtà, anche se non è una legge cattolica, salvaguardava i nascituri e il loro diritto a conoscere le proprie origini, anche al fine di tutelare l'identità personale da una parte, e dall'altro evitava il lucroso commercio di gameti che va sotto il falso nome di donazione e il conseguente sfruttamento delle donne. Questa è l'ultima picconata, probabilmente la più grave, a una legge che non è più quella che è stata approvata dal Parlamento. Allora, che non è più la legge che è stata approvata dal Parlamento 10 anni fa, questo l'avevamo detto, professoressa avvocata D'Amico, ma lei come risponde alle perplessità? Guardi, io rispondo in maniera molto chiara. Ieri, anche proprio davanti alla Corte Costituzionale, abbiamo portato, l'avevamo già scritto negli atti, i dati incredibili che riguardano la presenza di questo divieto. La presenza di questo divieto ha fatto in modo che dal 2004 a oggi siano nati 4.000 bambini ottenuti grazie alla fondazione eterologa fatta all'estero, bambini sconosciuti ai registri italiani e quindi, diciamo, poi nati in Italia. Però che non rientrano appunto e quindi non sono classificati nei registri sulla fecondazione, registri molto utili invece per tutta una serie di esami, di analisi o meno. Il mercato estero che si è prodotto è un mercato incredibile, cioè di incredibile discriminazione economica per le coppie italiane, perché sono state sottoposte a sacrifici economici, anche fisici e così via, pazzeschi, ma soprattutto un mercato che comporta in alcuni paesi l'assenza di regole e quindi un vero sfruttamento nei confronti appunto in particolare poi delle donne. Allora, in Italia una volta caduto il divieto, noi abbiamo alcune norme già presenti nella legge 40 che per esempio all'articolo 12 vietano la commercializzazione dei gameti, quindi da noi la fecondazione eterologa sarà una fecondazione con una donazione di gameti e quindi non con senza nessuna possibilità di commercializzazione, di mercificazione dei corpi di nessuno, in particolare di quelli delle donne. Quindi questi fantasmi che oggi si agitano in realtà sono tutti fantasmi che cioè non hanno senso, nel senso che il rimedio della caduta del divieto migliorerà moltissimo la situazione proprio rispetto a questi problemi, che sono dei problemi, cioè il tema della mercificazione, il tema appunto anche della per esempio del controllo dei donatori, è un tema in cui lasciare che le coppie si trovino esposte ad andare all'estero in paesi dove non c'è nessun controllo, quello sì è stata finora un'assenza di responsabilità e un atteggiamento anche molto grave da parte dello Stato italiano. Da oggi finalmente quelle stesse coppie hanno la possibilità di stare in Italia, noi in Italia regoleremo il mercato perché ci sono già una serie di norme e altre se ne possono fare, nel senso di controlli che ci sono già nei confronti dei centri sulla fecondazione, cioè oggi in Italia la fecondazione assistita è molto normata a livello appunto anche di centri, di qualità dei centri, di modo in cui i medici per esempio devono tenere le strutture, devono utilizzare i macchinari, cioè noi abbiamo una fecondazione assistita e di eccellenza e quindi per fortuna questa fecondazione d'ora in poi si applicherà anche alle coppie sterili in cui uno dei due partner deve ricorrere a un donatore esterno. Tutto qui, cioè non c'è veramente nessun fantasma da agitare, cioè ed è anche sbagliato poi il fatto di continuare adesso questa polemica, perché francamente credo che le coppie italiane quarantenne abbiamo diritto a questo punto di sentirsi un pochino più tranquille. Vedo infatti alcuni ascoltatori, Andrea, che scrive: una legge liberticida poco alla volta smantellata e svuotata grazie all'associazione Luca Coscioni, ma non solo, che già aveva promosso il referendum per abrogarla, ma ostacolati dalla CEI. Piccolo passo avanti, dice Andrea, verso una certo. libertà. Poi un altro ascoltatore, Nicola: sono contento, me la godo, dice, un diritto negato in meno non è mai una battaglia persa. Quindi lei dice, Marilisa D'Amico, rispetto all'avvocato Amato, che in realtà proprio quando ci sarà da ora trasparenza certo. e legalità e legittimità, non andranno più le coppie all'estero, in più lo faranno alla luce del sole, nel senso non dovranno sfruttare donne all'estero. Tra l'altro questa legge, quello che abbiamo rappresentato anche ieri alla Corte, che credo sia uno dei motivi su cui la Corte si è convinta, è che la legge stessa prevedeva il suo divieto, perché infatti la legge vieta la fecondazione eterologa, ma poi all'articolo 9 stabilisce tutte le norme in tema di filiazione per chi violava il divieto, cioè l'articolo 9 si dice che è vietato il disconoscimento di paternità, l'anonimato della madre, il rapporto con il donatore, naturalmente questo nel caso in cui la coppia avesse violato il divieto. È una norma questa che rimane, quindi è come se il legislatore avesse detto: beh, io devo introdurre questo divieto perché simbolicamente voglio vietarlo, ma so benissimo che lo faranno lo stesso, verrà violato, però io devo diciamo preoccuparmi dei bambini che nasceranno comunque in violazione del divieto. Ha fatto bene il legislatore, però è chiaro che una legge così concepita è una legge irragionevole, perché è una legge che da una parte dice una cosa e dall'altra ne stabilisce un'altra, per cui tutte queste problematiche che vengono agitate oggi del vuoto normativo, del mercato, sono tutti falsi problemi, perché il mercato estero è molto più dannoso, si è visto in questi anni, è molto più dannoso per le coppie italiane di un mercato interno, perché il mercato estero non è regolato, nessuno lo regola. Allora, quindi, mentre a Bruxelles e in Spagna si sa benissimo che si tratta comunque di centri di eccellenza, così chiama, molto costosi, le povere coppie che avevano meno possibilità economiche, alcune hanno rinunciato, ma altre invece sono andate nei paesi dell'est. Nei paesi dell'est, guardi che ci sono tantissimi casi di coppie tornate in Italia, bambini malati o addirittura loro malate, e hanno preso malattie anche come l'AIDS, perché è chiaro che se non c'è un controllo dei donatori, queste malattie possono trasmettersi. Noi invece fino al 2004 avevamo una seconda, cioè dei centri che controllavano severamente e rigorosamente i donatori. Guardi, oggi... Marilisa D'Amico, mi dica questa cosa: la ministra della Salute Lorenzin dice che l'introduzione della fecondazione eterologa nell'ordinamento è un evento complesso che difficilmente potrà essere attuato solo mediante decreti, e sostiene quindi che una legge svuotata richiede un intervento parlamentare. Quindi a questo punto che cosa succederà di questa legge? Bisogna di nuovo legiferare in Parlamento? Niente, perché se ci fosse stato questo problema la Corte non l'avrebbe dichiarata incostituzionale. La Corte l'ha dichiarata incostituzionale perché sa benissimo che non c'è un vuoto normativo a livello legislativo, ci sono già le norme legislative, gliel'ho detto, queste sulla filiazione c'è già l'articolo 9. All'articolo 12 si vieta la commercializzazione dei gameti, quindi significa che la nostra, diciamo, fecondazione eterologa verrà fatta attraverso la donazione e non attraverso appunto la mercificazione. E noi abbiamo già delle normative che si applicano già ai centri di fecondazione sulla donazione degli organi, che comportano tutta una serie di normative di qualità, di controlli e così via per la donazione in generale, e si applicheranno quindi anche alla donazione dei gameti. Per cui può darsi che ci voglia qualche norma di carattere organizzativo, qualche, non so, anche norma etica fra i medici, qualche aspetto più specifico, ma tutti questi aspetti non necessitano di un intervento parlamentare, necessiteranno semmai di un intervento a livello regolamentare, o meglio a livello di linee guida, e anche semmai anche di circolari che i medici possono già fare tra di loro, cioè i centri medici si sono già regolati, per esempio dopo la sentenza del 2009 della Corte Costituzionale si sono date delle regole comuni per tutta una serie di aspetti tecnici, ma proprio perché la legge 40 ha preteso a un certo punto, con il numero degli embrioni, con tutti questi divieti, di dire al medico quello che dovrà fare, ecco, non vorrei che ci fosse un nuovo legislatore che pretende appunto di dire al medico cioè nuove regole di cui i medici non hanno bisogno, perché diciamo, se c'è un punto importante delle sentenze della Corte Costituzionale a partire dal 2009 è che la Corte Costituzionale ha detto: questa è una legge che ha voluto normare troppo, che ha voluto imporre troppi divieti, ma sostanzialmente io ho fiducia dei medici e della loro responsabilità, e quindi quando la Corte dice dal 2009 al medico: sei tu che devi dirmi il numero degli embrioni, E a questo punto, nello stesso modo, sei tu che devi migliorare, cioè che devi praticare nel modo migliore la fecondazione eterologa, perché tutta una serie di norme legislative ci sono già e il resto secondo me è veramente una questione di applicazione tecnica, e quindi il ministro, diciamo, da questo punto di vista dice qualcosa, cioè anche pone un problema che secondo me non esiste da un punto di vista giuridico, perché, perché appunto non si tratta proprio di capire anche quali sono gli ambiti, quali sono gli ambiti appunto diversi rispetto ai problemi. Bene, io la ringrazio Marilisa D'Amico. Grazie a voi e grazie di questa informazione che è molto importante e molto utile in questo momento. Grazie. Grazie, grazie a lei. Vedo ancora molti vostri messaggi. C'è Lidia che dice: nessuno si preoccupa dei bambini, ma solo del business della fecondazione. In realtà, come ci spiegava l'avvocata D'Amico, dovrebbe finire il business e essere una cosa più alla luce del sole, questa fatta secondo legge. Poi Bruno da Milano dice: donazione di gameti, quali le donne sottoporranno a bombardamenti ormonali per donare ovuli gratis? Le favole raccontatele da altri. Evidentemente, invece, se questa cosa, se si va all'estero e si fa, evidentemente è possibile, ripeto, sempre attraverso la legge, se è intervenuta la Corte Costituzionale. E poi un altro ascoltatore scrive: sconfitta i bigotti e la Chiesa che dalla Roma papalina ha detta legge in Italia. Queste le vostre varie opinioni, poi parleremo anche di politica tra poco, quindi potete continuare a esprimere attraverso i messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo parlato in modo approfondito di questo ulteriore colpo alla legge sulla fecondazione assistita, la legge 40, e leggo ancora due messaggi, anche perché uno è piuttosto toccante. Indrid dice: argomento complesso, la verità sta nel mezzo delle posizioni liberiste e cattolico-conservatrici. Ma Vera scrive: finalmente una decisione tardiva, ma serve a ridare speranza a tante coppie. Io ho una figlia, scrive, che ha appena compiuto 3 anni, nata da una fecondazione eterologa. Guardo la mia bimba e mi emoziono pensando che adesso tante persone potranno avere la mia stessa gioia senza dover passare tutto quello che ho passato. Adesso cambiamo argomento, però prima vi ricordo come sempre quali sono stati i fatti principali di questa giornata. L'Unione Europea promuove il DEF, Renzi dice nessuna manovra aggiuntiva ma ridurre il debito, e Confindustria sostiene, cioè, è un banco di prova. Ultimo colpo alla legge 40, sia la fecondazione eterologa, la Consulta cancella il divieto, i cattolici insorgono e parlano di una follia. Berlusconi e i servizi sociali, Strasburgo l'ultima carta, Forza Italia punta i piedi in Parlamento e dice: Italia come Senato devono andare avanti insieme. La svolta nel PD, 5 donne capolista alle europee, tensioni intanto sulle riforme, la minoranza del PD non ritira il disegno di legge. E poi il processo alla clinica degli orrori, ergastolo per l'ex primario Brega Massone. A Grosseto il tribunale ordina al comune di trascrivere nel registro di stato civile il matrimonio di 2 uomini avvenuto nel 2012 a New York e per il calcio serata di Champions League. E parliamo un po' di tutto quello che c'è sul tappeto a proposito di politica con Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Stefano. Ciao, ciao Roberta. Allora, Matteo Renzi da una parte possiamo dire galvanizzato da Fondo Monetario e Bruxelles che diciamo promuovono la sua manovra economica e dicono va bene, poi però vogliamo vedere i dettagli nero su bianco scritto, insomma, il documento. Lui però si è lamentato che il DEF dalla gran parte della stampa, dei media, non è stato accolto con l'entusiasmo che lui si aspettava. Dice però vabbè, è passato un po' sottotono. Poi c'è Stefano Fassina della minoranza PD, anche oggi a Mix24, che ha detto le sue politiche sono in continuità con l'austerity di Monti e Letta, quindi l'ha criticato pesantemente. Poi c'è chi lo accusa, anche sempre da sinistra, di eccessiva timidezza perché questa manovra prevede una crescita piuttosto lenta. Da destra dicono che raschia il fondo del barile col rinvio di un anno del pareggio di bilancio. E poi c'è anche la questione Berlusconi con la sentenza di domani, che probabilmente un po' di impatto sull'accordo tra Renzi e Berlusconi ce l'avrà, Stefano, quante cose insomma, no? Sì, no, non c'è dubbio, per quanto ormai l'esito sia scontato, è chiaro che un po' di shock ci sarà. Domani dici? Domani, perché finisce un'epoca, no? Finisce un'epoca in cui Berlusconi era un po' il dominus della politica italiana, e da domani comunque la sua quella che si dice in gergo l'agibilità politica, sì, sarà ridotta sia con i servizi sociali e ancor più con i domiciliari, ma penso che andrà ai servizi sociali, e questo avrà una qualche riflesso sui patti di governo. Io credo che non ci sarà nessuna rottura del patto, questo patto che dovrebbe consentire il passaggio delle riforme in Parlamento, ma penso anche che non ci sarà nemmeno una grande convergenza. Resteremo in quella specie di terra di nessuno in cui non ci sono né accordi né rotture clamorose, e questo naturalmente è rischioso per Renzi, è rischioso perché le riforme hanno bisogno di una convergenza vera e di una capacità di approvarle con una certa determinazione. Insomma, c'è molto malcontento in Parlamento e Renzi se ne deve accorgere. Quindi anche se Brunetta lo martella da giorni dicendo ieri, nei giorni scorsi aveva dato insomma l'ultimatum, o si procede con l'Italicum sul Senato oppure tutti a casa. Poi oggi ha detto balle cosmiche a proposito degli 80 euro in busta paga, no? Perché molti dicono sono soltanto soldi virtuali che ancora non sono arrivati. Brunetta si è ritagliato questo ruolo, no? Un po' di castigavanti, però in alcuni casi alcune delle cose che dice sono anche condivisibili, non certo quando dice che l'abolizione delle province è un golpe, però quando fa alcune critiche alla politica economica sono critiche che si possono e si devono meditare, valutare. È inutile, il Presidente del Consiglio si lamenta che non c'è stato un sufficiente coro di consensi al suo DEF, ma deve anche capire che si tratta di un documento così importante, così complesso, di cui peraltro non si conoscono ancora tutte le cifre, che certe riserve, certe critiche, anche piuttosto moderate, espresse dai giornali, sono inevitabili. Io penso che però sia importante che questo documento venga accolto dall'Unione Europea e soprattutto che sia presto verificato nei fatti. Invece per quanto riguarda quelli che ormai si definiscono mal di pancia all'interno del PD, no? Sia sul Senato sia anche sul Jobs Act, c'è questa parte del PD che vorrebbe riformarlo consistentemente. Ma nel Partito Democratico è chiaro che c'è una pressione, il gruppo più legato al vecchio assetto del partito che soffre pesantemente questa leadership di Renzi, e Renzi fino adesso ha fatto poco per accattivarsi. Adesso io credo che perlomeno per quanto riguarda la riforma del Senato, non dico che scenderà a compromessi, però una qualche forma di mediazione politica, di capacità di comprendere che i numeri sono quelli che sono, e quindi se per caso si dovesse saldare l'operazione dei 5 Stelle strumentale, no, di convergere sulla linea della minoranza del PD più i malumori di Forza Italia, è chiaro che se questo accadesse non ci sarebbero probabilmente i numeri per passare le riforme in Senato. Quindi questo richiede una qualche forma di dialogo, di confronto e di accordo. Senti, ultima cosa, Stefano, ti faccio sentire invece la svolta annunciata da Renzi per il PD per quanto riguarda le europee. Io trovo, per la discussione che abbiamo fatto in questi mesi e per la scommessa che noi facciamo sull'Europa, che sarebbe un bel segno se il Partito Democratico, anche che si è diviso al nostro interno su queste questioni, io continuo a dire che è stato eccessivo il tono di alcune e alcuni di noi nella discussione sulla legge elettorale rispetto alla parità di genere, quindi non sono certo un pasdaran in questa direzione, ma sarebbe un segno molto bello se il Partito Democratico ponesse alla guida delle liste nelle 5 circoscrizioni 5 candidature femminili, non come bandierine da mettere lì, ma con 5 persone che per la loro esperienza, per la loro storia personale, per il lavoro che hanno fatto in questi giorni, possono dare un contributo all'Europa. Proprio in una parola, Stefano Folli, è sostanziale o simbolica questa decisione? Ma lui dice che non devono essere bandierine, un pochino bandierine sono invece, anche se secondo me l'idea è buona, è un'idea di marketing politico e lui in questo è bravissimo, sa accattivarsi il voto dell'elettorato femminile con un'operazione che va al di là della vicenda della parità di genere che era finita in un certo modo in Parlamento, è un'operazione di marketing intelligente. Però è intelligente, il primo passo che, potrebbe no, essere. No, intelligente, cosa che Renzi sa fare molto bene. Grazie Stefano Folli. Ciao, a presto. Grazie mille, ciao, ciao Stefano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo in pochi secondi e poi parleremo di un altro tema. Partiamo dalla fecondazione eterologa, cade il divieto, bocciati gli articoli della legge 40 che proibivano il ricorso a un donatore o a una donatrice esterni in caso di infertilità assoluta. E poi l'Unione Europea promuove il documento economico finanziario di Renzi, nessuna manovra aggiuntiva garantisce lui. Elezioni europee, svolta nel Partito Democratico, solo donne in testa alle liste, il processo per la clinica degli orrori, ergastolo per l'ex primario Brega Massone. Poi ci aggiorniamo dopo per la Champions con il calcio. Adesso parliamo invece di Europa, il nostro spazio qui a Effetto Notte dedicato all'Europa. Europei o cittadini nazionali? Come viene percepita la cittadinanza europea, cioè l'essere cittadini dell'Europa? Europa 24 Notte. Secondo l'ultima fotografia dell'Eurobarometro sull'identità dei cittadini europei e su come viene percepita dagli europei stessi, nel 2012 il 60% di loro si considerava come cittadino dell'Europa e la parte restante considerava se stesso sia come europeo sia come cittadino della propria nazione. Per Morten Løkkegaard, membro del Parlamento europeo in quota liberal-democratici, questa proporzione può crescere concentrando le forze sull'educazione e la formazione, cioè che cosa significa Unione Europea, come è stata costruita, quali sono i valori europei. I cittadini europei dovrebbero conoscere le risposte fin dalla giovane età. E lo stesso Morten Løkkegaard sente di avere due cittadinanze, danese ed europea, e afferma che non si debba per forza scegliere. Io mi sento entrambe e questo è il punto centrale della discussione. Si può essere sia danese sia cittadino europeo? La mia risposta è sì. Come si può essere uomo o donna, insieme madre o padre, figlio o figlio. Female, male, father, son, daughter. Però, sottolinea, c'è una differenza tra sentirsi europeo e avere un'identità europea, visibile tutti i giorni. We call ourselves Europeans. Noi ci chiamiamo europei, ma lo siamo? Questa è la domanda. Dobbiamo parlare di temi europei, leggere libri, guardare film europei. Dobbiamo avere una cultura europea prima di sentirci europei. Comunque è davvero difficile definire cosa sia l'identità europea. Dobbiamo pensarla come un paradosso, come se fossimo diversi ma uniti. Ci sono 28 differenti culture ma con gli stessi valori, quindi è importante che capiamo le altre culture. Penso che la cultura sia importante, non è un luogo comune ovviamente. L'euro è importante ma ha un significato politico, ciò di cui dobbiamo parlare è per definire l'identità europea e di ciò che ci unisce, questa è la cultura europea, cioè i valori. Ritengo che il focus finora sia stato troppo concentrato sulla nostra storia dopo le guerre mondiali e anche sul progetto europeo, ma dobbiamo andare oltre, trovare quello che abbiamo in comune. E se ci guardiamo alle spalle, ci sono 400 anni che abbiamo una vera unione nell'educazione. Inizia tutto nelle scuole coi giovani, perché loro non hanno paura di essere parte del mondo. Sono abituati a viaggiare, a essere parte di un mondo più grande. Bisogna iniziare con i giovani europei la discussione sull'identità europea, perché penso ne abbiano diritto. Penso che se si ha la mia età, 50 anni, sia troppo tardi. Sui cittadini europei ha avuto un impatto forte la crisi. Gli intervistati, circa 32.000 persone, per il 51% pensano che il compito principale dell'Unione Europea sia combattere le difficoltà economiche e la crisi. Si aspettano lavoro, qualità di vita, stabilità economica, ma anche gestione del deficit e dei debiti, della crescita, della povertà, regole per i mercati finanziari, supporto per l'euro. La crisi può essere utile. Certo, quando abbiamo crisi dure possiamo vedere estremismi, populismi, nazionalismi, ma non credo di essere preoccupato per questo. Di sicuro sono preoccupato del loro aumento, ma penso che se si guarda avanti di 20 o 30 anni, questo finirà, la gente tornerà alla normalità, ci sarà una nuova consapevolezza dell'Europa. Questa è una buona conseguenza della crisi. Cioè che questi temi vengono in superficie, dobbiamo parlarne allo scoperto, per esempio del sistema previdenziale, della differenza tra uno e l'altro. Questo è un buon dibattito europeo che chiarisce il ruolo dell'Europa. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Vedo ancora tanti vostri messaggi sulla fecondazione eterologa, sull'ulteriore spallata alla legge 40, però adesso dobbiamo cambiare argomento e parliamo di Ucraina, perché questa mattina intorno alle 10 ora italiana è arrivato un ultimatum dal ministro degli interni ucraino Avakov. Ha detto entro 48 ore sarà posta fine alle azioni di protesta dei filorussi nell'est dell'Ucraina. Sapete che già si è staccata la Crimea col referendum e poi adesso ci sono anche dei disordini nell'est dell'Ucraina, anche se qualche esperto ha parlato in questo caso non di una popolazione che insorge, ma come di infiltrati russi che stanno cercando di sobillare le popolazioni dell'est dell'Ucraina, della parte che confina con la Russia. Ebbene, quindi il governo di Kiev ha inviato alcuni blindati a Lugansk, nell'est, dove gli insorti filorussi occupano la sede locale dei servizi segreti. Saluto Vittorio Emanuele Parsi. Ciao Vittorio Emanuele, bentornato. Ciao Roberta. Geopolitologo, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. E, insomma, si sta man mano sbriciolando l'Ucraina, spezzettando, la tensione è sempre più alta. Ci sarà un incontro la settimana prossima a 4 tra Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Ucraina, però gli Stati Uniti hanno fatto sapere in serata di non essere molto ottimisti, di non avere grandi aspettative su questo incontro. Beh no, perché direi che come se poi, diciamo così, ci spiega la questione della Crimea, Vittorio, ti si sente malissimo, non so se stai viaggiando, se sei su un prato, proviamo a richiamarti, intanto io allora ne approfitto per leggere qualcuno dei vostri messaggi sempre sulla fecondazione. Per esempio, fate come me, dice Ale da Milano, ho adottato una bambina a distanza ma sul serio e faccio volontariato, maternità e dare non possedere. Poi invece dice un altro ascoltatore, non vorrei essere quel figlio a cui un giorno diranno tuo padre o madre è un donatore, non sappiamo chi sia. Si pensa sempre al bisogno dei genitori di avere un figlio, dice mai al diritto del bambino di avere dei genitori. E poi invece un altro ascoltatore o ascoltatrice scrive legge 40, sconfitti i talebani italiani. E poi un altro che dice i cattolici che non la facciano sta fecondazione, mica siamo tutti cattolici. Vittorio Emanuele, eccomi qua, sono sul tetto, poi dico con le cicogne, salutacene. Quindi dicevi, insomma, le aspettative non ci sono da parte degli Stati Uniti. Non ci sono perché per come la crisi in Crimea è stata gestita e di fatto la Russia se l'è annessa, e questo ha creato, diciamo così, una lezione che i russi da una parte e gli eventuali elementi filorussi interni all'Ucraina hanno imparato. Non è detto che ci sia Mosca necessariamente dietro, potrebbe esserci in realtà qualche agitatore politico locale, qualche capo politico locale che investe sulla secessione non del Veneto ma dell'Ucraina orientale in questo caso, e a quel punto la Russia in realtà non può fare tutto altro che o perdere e sconfessare questi alleati ingombranti o seguirli, certo non può condizionarli. Ma secondo te come a questo punto che cosa può fare gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che cosa possono fare? Ma intanto l'Ucraina che deve fare, è l'Ucraina che deve riportare l'ordine in quella parte del paese, non ci sono molte alternative, anche perché questa volta siamo passati direttamente ai Kharkov, cioè quelli che hanno occupato gli edifici pubblici in alcune città dell'Ucraina orientale, li hanno occupati armati immediatamente, per cui questo non può essere tollerato e l'Europa e gli Stati Uniti possono solo chiarire alla Russia che di fronte a questo atteggiamento non riterranno tollerabile un intervento russo a sostegno dei rivoltosi. Ma tu naturalmente che hai lungimiranza e capacità di previsione, secondo te Putin starà fermo anche in questo caso o farà come aveva fatto già per la Crimea, cioè quel punto di spingere ulteriormente questa ondata? Se gli ucraini sono molto rapidi ed efficaci nel chiudere la partita rapidamente, Putin potrà anche scegliere di stare fermo. Se la cosa si sfilaccia è molto difficile che Putin possa stare fermo dopo che ha invocato inesistenti minacce alla popolazione crimeana, se l'invasione crimeana francamente si scappasse il morto o i morti, come fa a spiegare la sua opinione pubblica che i russi ucraini di quella zona valgono meno dei russi crimeani? È difficile per lui. Vedremo come andrà la settimana prossima, tanto qui si procede tappa per tappa. Grazie Vittorio Emanuele Parsi, ciao caro, buona continuazione, noi continuiamo tra pochissimo.